Sezione ventinovesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre, canto ventinovesimo. Quando ambedue li figli di Latona, coperti del montone e della libra, fanno dell'orizzonte insieme zona, quant'è dal punto che li tiene in libra, infin che l'uno e l'altro da quel cinto cambiando l'emisperio si dilibra? Tanto col volto di riso dipinto si tacque Beatrice riguardando fiso nel punto che m'avea vinto. Poi cominciò: io dico, e non dimando quel che tu vuoi udir, perch'io l'ho visto, ove s'appunta ogni ubi ed ogni quando. Non per avere a sé di bene acquisto, che esser non può, ma perché suo splendore potesse risplendendo dir sussisto. In sua eternità di tempo fuore, fuor d'ogni altro comprender come ei piacque, s'aperse in nuovi amor l'eterno amore. Né prima quasi torpente si giacque, che né prima né poscia procedette lo discorrer di Dio sopra quest'acque. Forma e materia congiunte e purette usciro ad atto che non avea fallo, come d'arco tricorde tre saette. E come in vetro, in ambra ed in cristallo raggio risplende, sì che dal venire all'esser tutto non è intervallo, così il triforme effetto dal suo sire nell'esser suo raggiò insieme tutto, senza distinzion nell'esordire. Concreato fu ordine e costrutto le sostanzie, e quelle furon cima nel mondo in che puro atto fu prodotto. Pura potenzia tenne la parte ima, nel mezzo strinse potenzia con atto tal vime che giammai non si divima. Ieronimo vi scrisse lungo tratto dei secoli degli angeli creati, anzi che l'altro mondo fosse fatto. Ma questo vero è scritto in molti lati dagli scrittor dello Spirito Santo, e tu lo vederai se bene agguati. Ed anche la ragione il vede alquanto, che non concederebbe che i motori senza sua perfezion fosser cotanto. Or sai tu dove e quando questi amori furon creati e come? Sì che spenti nel tuo desio già sono tre ardori. Ne giugniesi, numerando al venti sì tosto, come degli angeli parte turbò il soggetto de vostri elementi. L'altra rimase e cominciò quest'arte che tu discerni, con tanto diletto che mai da circuir non si diparte. Principio del cader fu il maledetto superbir di colui che tu vedesti da tutti i pesi del mondo costretto. Quelli che vedi qui furon modesti a riconoscer sé della bontate che gli avea fatti a tanto intender presti, perché le viste lor furo esaltate con grazia illuminante con lor merto, sì c'hanno piena e ferma volontate. E non voglio che dubbi, ma sie certo che ricever la grazia è meritoro, secondo che l'affetto l'è aperto. Ormai, d'intorno a questo consistoro, puoi contemplare assai, se le parole mie son ricolte, senz'altro aiutoro. Ma, perché in terra, per le vostre scuole, si legge che l'angelica natura è tal che intende e si ricorda e vuole, ancor dirò, perché tu veggi pura la verità che laggiù si confonde, equivocando in sì fatta lettura. Queste sostanze, poiché fur gioconde della faccia di Dio, non volser viso da essa, da cui nulla si nasconde. Però non hanno vedere interciso da nuovo obietto, e però non bisogna rimemorar per concetto di viso, sì che laggiù non dormendo si sogna, credendo e non credendo dicer vero, ma nell'uno è più colpa e più vergogna. Voi non andate giù per un sentiero filosofando, tanto vi trasporta l'amor dell'apparenza e il suo pensiero. Ed ancor, questo quassù si comporta con men disdegno che quando è posposta la divina scrittura o quando è torta. Non vi si pensa quanto sangue costa seminarla nel mondo e quanto piace chi umilmente con essa s'accosta. Per apparer ciascun s'ingegna e face sue invenzioni, e quelle son trascorse da predicanti, e il Vangelio si tace. Un dice che la luna si ritorse nella passion di Cristo e si interpose perché il lume del sol giù non si porse, ed altri che la luce si nascose da sé, però agli ispani e agli indi come a giudei tale eclissi rispose. Non ha Firenze tanti lapi e bindi, quante si fatte favole per anno in Pergamo si gridan quinci e quindi, sì che le pecorelle, che non sanno, tornan dal pasco pasciute di vento e non le scusa non veder lor danno. Non disse Cristo al suo primo convento, andate predicate al mondo ciance, ma diede lor verace fondamento. E quel tanto sonò nelle sue guance, sì, capugnar per accender la fede dell'Evangelio fero scudi e lance. Ora si va con motti e con iscede a predicare, e pur che ben si rida, gonfia il cappuccio e più non si richiede. Ma tale uccel nel becchetto s'annida che, se il volgo il vedesse, non torrebbe la perdonanza di che si confida. Per cui tanta stoltezza in terra crebbe che senza prova d'alcun testimonio ad ogni promission si converrebbe. Di questo ingrassa il porco Sant'Antonio ed altri assai che son peggio che porci, pagando di moneta senza conio. Ma perché sem digressi assai, ritorci gli occhi oramai verso la dritta strada, sì che la via col tempo si raccorci. Questa natura si oltre s'ingrada in numero che mai non fu loquela né concetto mortal che tanto vada. E se tu guardi quel che si rivela per Daniel, vedrai che in sue migliaia determinato numero si cela. La prima luce che tutta la raia per tanti modi in essa si ricepe quanti son gli splendori a che s'appaia, onde, perocché all'atto che concepe segue l'affetto, d'amor la dolcezza diversamente in essa ferve e tepe. Vedi l'eccelso mai e la larghezza dell'eterno valor, poscia che tanti speculi fatti sa, in che si spezza, uno manendo in sé come davanti. Fine del canto 29.